Aqui a tribo seria distribuída de escolha o sucesso e para o modo ad primo milita botgelis e nevogelito e si tradiveram de guida marco bruto e ruente di xisse caissi un Mi chiamo Daniele Monticelli, nato a Milano il 15 marzo del 1979 e sono uno storico specializzato in antichità romana. Se esordisco con le mie credenziali è solo per mettere in chiaro fin da subito che non sono uno squilibrato e che la storia che intendo raccontare non è il parto di una mente insana e delirante. E soprattutto non ho paura di svelare la mia identità e di dire tutto quanto. Che lo vogliate o no, bastardi della b**** e del nocp, presto l'esistenza del paleofono non sarà più un segreto. Registrerò i fatti di cui sono stato protagonista negli ultimi 2 anni e poi metterò la testimonianza in mani fidate, con il preciso mandato di divulgarla. È ora che questa vicenda diventi di pubblico dominio, tutta quanta e senza sconti. Nel momento in cui mi ascoltate, dunque, è già tutto inciso e assicuro. Venite pure a cercarmi, stronzi. Bene, allora, si parte. Tutto ebbe inizio nel maggio del 2006, quando divenni consulente scientifico della Clio Media, nota casa di produzione televisiva con sede a Roma, operante nel settore della documentaristica storica e scientifica. Ricordo molto bene il colloquio con il presidente, Alessandro Corvero. Fu a dir poco surreale. Cercava un consulente specializzato in storia romana, ma fin dal primo appuntamento capì che non si trattava del solito lavoro di ricerca. Prima ancora delle parole me lo disse l'aspetto del presidente. Un uomo vivace e cordiale, sulla 60ina, ma dagli occhi terribilmente volitivi, quasi rapaci. Dopo i soliti convenevoli sulle mie referenze, Alessandro si mostrò piuttosto reticente sull'attività che avrei dovuto svolgere. Accennò un progetto del tutto innovativo, questo sì, un progetto volto a ricostruire episodi e scene della storia romana con l'ausilio di tecnologie avanzatissime e mai sperimentate prima. Ma rimase sul vago e glissò abilmente tutte le mie richieste di chiarimento. Mi parlò della Clio Media e della sua volontà di farne una pioniera nel mercato dei documentari televisivi, rimarcando più volte la centralità dell'innovazione nella filosofia aziendale e quello che, di conseguenza, era il requisito fondamentale richiesto ai potenziali collaboratori. Un'assoluta e spregiudicata apertura mentale al nuovo, testuali parole. Poi, come se tutta la faccenda non fosse già abbastanza misteriosa, mi fece una domanda stranissima, resa ancor più strana dal suo tono che voleva essere disinvolto e invece riuscì sornione. Mi chiese che cosa pensavo dei viaggi nel tempo. In quell'istante ebbi la certezza di trovarmi di fronte a un pazzo, eppure resistetti all'impulso di ridergli in faccia e alzare i tacchi. Che la Clio Media fosse un'azienda florida e prestigiosa era un fatto, che il suo presidente godesse di grande credito nella comunità scientifica, nazionale e non, era un altro fatto. Così feci spallucce e risposi qualcosa come «Sono uno storico e come tale mi baso sui fatti». Fino a prova contraria, i viaggi temporali sono e restano appannaggio della fantascienza. «Fino a prova contraria», dissi proprio così. E mentre io pensavo di aver fatto la figura del paraculo, quell'inciso, come Corvero mi confidò in seguito, mi guadagnava il lavoro e la sua stima. In quel primo e decisivo incontro non parlammo dell'eventuale trattamento economico. Io ero troppo incredulo e perplesso per pensarci, e lui non ne fece parola. Nei giorni successivi il presidente mi richiamò personalmente, altra cosa singolare ma avrei finito per farci l'abitudine, per fissare un secondo colloquio. Nemmeno in quella sede la patina di mistero si diradò, anzi, comunque mi accolse affabilmente e affrontò immediatamente la questione contrattuale. Se avessi accettato i termini che mi proponeva, il posto sarebbe stato mio. Il contratto, semestrale ma prorogabile, prevedeva un trattamento decisamente generoso. E questo, insieme a un'insolita clausola di assoluta segretezza su tutto ciò che riguardava un certo progetto a cui avrei collaborato, mi mise in guardia. La verità è che non potevo permettermi di rifiutare. Avevo un disperato bisogno di un lavoro, senza contare che tutto quel mistero e l'innegabile carisma di Corvero avevano finito per intrigarmi. Però volevo delle certezze, così lo guardai dritto negli occhi e chiesi 2 garanzie. 1. Che il lavoro non comportasse né mi coinvolgesse in alcunché di illegale, 2. Che non mi esponesse a pericoli di sorta. Fu sincero, assentì sul primo punto e quanto al secondo mi assicurò che in quei primi 6 mesi non ci sarebbero stati rischi. Non ancora. Decisi di fidarmi, gli strinsi la mano e firmai il contratto. Ricorderò sempre le parole che Corvero mi disse allora. Le prometto una cosa, Monticelli, lei non scriverà, lei farà la storia. Quel giorno ero ben lontano dall'immaginare che la sua era ben più che la spacconata di un presidente orgoglioso, e così pure che, entrando nel progetto ECOS, presto avrei cambiato la mia vita e incontrato gente pronta a togliermela. Povero Corvero, a lui nessuno poteva offrire le sicurezze e le tutele che a lungo seppe garantire al team dell'ECOS, e Dio solo sa quanto gli sia costato. Una cosa devo e voglio dichiarare subito, a dispetto di tutte le indegne voci messe in giro sul suo conto. Fu non solo un uomo lucido e geniale, ma anche leale e onesto, sempre. Chi lo dice pazzo e mitomane in mente per interesse, e visionario, infine, lo fu solo nella misura del suo ottimismo, dell'ingenua fiducia che riponeva nell'etica e nella buona fede degli uomini. Nella sua utopia di un mondo diverso e migliore, sì, prese un granchio, ma il resto è tutto vero. L'ECOS, il paleofono, Mnemosine, il NoCP, è tutto vero. Cazzo se è vero. Kaisin Delian. Quaquent, quaquent.